24 mattino. E così, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, si chiude, archiviamo anche questo calendario 2013, l'ultima casellina. Oggi è momento, come si dice sempre, insomma, un po' retoricamente, ma poi inevitabilmente, momento di bilanci. Di bilancio di un anno che, diciamo la verità, è stato un anno pienissimo di eventi a livello internazionale e in particolare un anno piuttosto difficile, ma noi concentriamoci sull'Italia, perché fare un bilancio già mondiale sarebbe una cosa impossibile nell'arco di un'ora e qualcosa. Concentriamoci quindi sui fatti italiani, che già sono moltissimi se li vogliamo elencare, sullo sfondo della crisi, con tutto quello che è successo soprattutto a livello politico, no? Con le elezioni che ci sono state quest'anno, la sfumata vittoria del PD e poi le larghe intese, il fenomeno Grillo, il ciclone Renzi, la nuova investitura di Napolitano. Sapete, stasera poi farà il discorso, boicottato da varie parti, da Grillo da una parte, da Forza Italia dall'altra, anche la Lega se l'è. Insomma, tante cose da raccontare. Quindi facciamo un quadro, un bilancio almeno, diciamo così, di quello che è successo politicamente in Italia, diciamo sempre appunto con la crisi che ci ha accompagnato, che esplose in particolare l'anno scorso. Quest'anno l'abbiamo sentita fino in fondo e vediamo se si intravede la luce in fondo al tunnel, come si dice, almeno per il prossimo anno. E concentriamoci, dicevo appunto, sui fatti di quest'anno, con tanti ospiti che tra poco saluterò e naturalmente anche con le vostre riflessioni. Quali dei fatti italiani, e soprattutto relativamente alla politica, all'economia, se tiriamo in ballo anche la questione dell'IMU, di cui parleremo, che è stato veramente il pasticciaccio brutto di quest'anno, che ancora alla fine si trascina e si trascinerà l'anno prossimo trasformandosi in qualcos'altro. Poi affronteremo anche questo tema, ma vi dicevo, intanto raccontate voi qual è stato il fatto, il fenomeno che più vi ha colpito quest'anno. Il numero verde è 800 24 00 24, con voi Roberta Giordano fino alle 9.30. Quindi di tempo ne abbiamo, ma voi cominciate a chiamare il prima possibile numero verde, in modo poi da non rimanere proprio in coda quando si comincia a correre. Allora comincerei col salutare subito il professor Gianfranco Pasquino. Professore. Buongiorno professore, politologo e professore di scienza politica a Bologna, e poi Elisabetta Gualmini. Ben ritrovata, professoressa Gualmini. Buongiorno. Presidente, eccoci, dell'Istituto Cattaneo, politologa, editorialista della Stampa, e poi man mano altri ospiti che si aggiungeranno. Allora, Gianfranco Pasquino, se dovessimo fare un primo breve, ecco, chiedo poi naturalmente anche ai prossimi ospiti di essere molto sintetici, così riusciamo a elencare varie cose, dei vari avvenimenti che sono successi quest'anno. Se dovesse fare una istantanea, una polaroid di quello che è successo quest'anno a livello politico, a partire dalle elezioni di aprile a quello che poi è successo dopo, che direbbe Pasquino? Ma il fatto più importante, perché assolutamente senza precedenti, è stata la rielezione del Presidente della Repubblica, il quale non la voleva e preferiva anche che non avvenisse, per non creare un precedente istituzionale. In secondo luogo, il fatto più importante sicuramente è stata l'esclusione dal Senato di Silvio Berlusconi, in un certo senso la fine della carriera parlamentare di Berlusconi. In terzo luogo è l'elezione di Matteo Renzi, perché non soltanto è avvenuta con modalità direi assolutamente estranee alla storia di quei due partiti, ma perché avrà delle conseguenze molto importanti. E ha già avuto delle conseguenze importanti, nel senso che è già incominciato il rinnovamento almeno generazionale del Partito Democratico e forse anche della politica italiana. Tra l'altro, professoressa Gualmini, nell'editoriale di ieri, no, su Renzi, ha detto chiaramente che Renzi, nell'intervista del giorno prima, sempre sul suo giornale, sulla Stampa, contiene 5 proposizioni che fanno emergere la sua posizione rispetto al governo e anche a quello che si prefigura per il prossimo futuro, abbastanza vicino. Primo, la cosa che poi è rimbalzata su tutti i giornali, la dichiarazione che ha fatto Renzi piuttosto forte, dicendo: io, anche se sono un quarantenne come Letta e con Alfano, con loro non c'entro nulla. Quindi un giorno sembra che con Letta ci possa essere un accordo, un tandem, non so come definirlo, e poi però continua a segnare Renzi le distanze, no? Devo dire che insomma c'è stato molto clamore intorno a questa frase, ma è perfettamente comprensibile, insomma, pensando al personaggio, nel senso che Renzi non può che marcare la sua discontinuità rispetto all'esperienza di Alfano e Letta, perché Renzi ha appena ottenuto, come diceva il professor Pasquino, praticamente un plebiscito popolare, quindi si è conquistato il suo successo sul campo ottenendo una marea di voti dal basso. Letta e Alfano, nonostante siano persone degne, però sono state, diciamo, nominate dall'alto, non hanno un'investitura popolare, quindi è evidente che Renzi sta, secondo me, alzando il tiro e alzando anche l'asticella delle cose che vuole ottenere da questo governo, rimarcando costantemente il fatto che lui ha un pacchetto, un tesoretto di voti che gli altri non hanno. Quindi adesso veramente la partita si fa molto complessa, a mio parere, e la questione più rilevante non è certamente il lavoro, nemmeno l'abolizione del Senato, ma è questa benedetta legge elettorale, e quindi vediamo cosa succede. Io penso che in realtà tra i due, Letta e Renzi, insomma, ci sia un conflitto sotterraneo e che in realtà non sarà così semplice scendere a patti, e lo vedremo davvero nel mese di gennaio. Quindi abbiamo un 2014 che già si prefigura ricchissimo anche qui di sommovimenti politici, intanto però concentriamoci, appunto, come dicevamo, sul 2013. Di carne al fuoco già ne stiamo mettendo moltissime, poi man mano aggiungeremo altri fatti, altre considerazioni, altre analisi, anche con le vostre, di ascoltatrici e ascoltatori, al numero verde 800 24 0024. Sentiamo giusto quali sono gli aggiornamenti per il traffico dopo. 24 mattino. È un biglietto per le stelle, quello lì davanti a te. Cambierai la pelle, ma resta speciale, non ti buttare via. In questo inferno di ombre piatte, ribelle Matteo Renzi, uno dei protagonisti di quest'anno del 2013 che sta chiudendo oggi. Siamo insieme per fare un piccolo bilancio di quest'anno che riguarda, in particolare, diciamo, concentriamoci appunto sull'Italia, perché sarebbe troppo ambizioso occuparsi anche di tutti gli altri avvenimenti che sono successi durante l'anno in tutto il mondo. Diciamo, già ne abbiamo abbastanza in casa nostra, non ci siamo mai annoiati nessun giorno di questo 2013, anche soltanto riferendosi alla politica italiana. Dicevamo, appunto, un anno in cui ci sono state le elezioni, in cui c'è stata una specie di tripolarismo, non solo PD-PDL ma anche il boom di Grillo, e quindi poi le larghe intese, la rielezione, ricordavamo prima, di Napolitano, la decadenza di Berlusconi, la rinascita di Forza Italia, l'esplosione per l'appunto di Renzi, e poi tutto questo con sullo sfondo una crisi economica che ha segnato sempre di più un declino italiano e un aumento anche della povertà. L'Istat anche in questi giorni lo ha riconfermato, una maggiore diffusione della povertà in Italia, e poi tutte le misure paradossali fiscali a partire dall'IMU che ci sono state quest'anno e che si trascineranno anche l'anno prossimo. Ne stavamo parlando prima con due politologi che sono Gianfranco Pasquino e Elisabetta Gualmini, e poi ci ha raggiunto adesso Maurizio Belpietro. No, adesso ha un problema Maurizio Belpietro, e quindi continuiamo a parlare con il professore Pasquino. Pasquino, tra l'altro questo è stato anche l'anno in cui, proprio con la vittoria di Grillo da una parte, e forse, non so se interpretarla così, anche la vittoria di Renzi come segretario del PD, che ha segnato in modo particolare l'esasperazione degli italiani nei confronti della politica. Un'antipolitica, o forse la richiesta di una politica più onesta, più fattiva? Ma un po' tutte e due. Certamente l'antipolitica non nasce con Grillo e neanche con Renzi. Renzi comunque ne ha un tasso minimo rispetto a quello di Grillo, ma nasce, credo, alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, e viene anzitutto espressa in maniera molto significativa per tutto il periodo da Silvio Berlusconi. Questo è stato uno dei suoi elementi di forza. In secondo luogo, per quello che riguarda la insoddisfazione per la politica, questa è diffusissima e continua a essere tale. Cioè, se uno guarda i sondaggi vari che vengono fatti sulla popolarità dei partiti che sono giunti oramai a livelli bassissimi, tra il 4 e l'8%, rispetto ad esempio alle forze armate che si trovano intorno al 60-65%, nota quindi che gli italiani hanno e mantengono questa loro insoddisfazione. Dopodiché si può anche essere ribelli per un po' e poi, se si riesce, come si dovrebbe, vincere le elezioni, bisogna riuscire a trasferire quella carica in capacità di governo, che credo che sia il compito, il grande compito che attende Renzi, e naturalmente si vincerà le elezioni. Però deve fare i conti naturalmente anche con il fatto che gli antipolitici deve riuscire a trasformarli in persone che, se non amano la politica, uso questa parola politichese, quantomeno sono interessati e si informano sulla politica. Questo sarebbe un bene per tutto il paese. A questo proposito, stavo guardando adesso l'editoriale di Antonio Polito oggi sul Corriere, l'impazienza di un leader, riferita a Renzi. Dice Renzi: il PD di lotta e di governo, proprio, no? Questa ribellione, e dall'altra parte, come diceva lei, professor Pasquino, la necessità poi di convogliare questa ribellione, questa voglia di fare delle cose nuove, però dentro la politica, dentro la capacità anche di governare il paese. Stavo guardando, a proposito di antipolitica, la notizia di oggi sul Corriere Online: la Corte dei Conti condanna Lusi, l'ex tesoriere della Margherita, deve risarcire 22 milioni di euro. Elisabetta Gualmini, che anno è stato a questo punto di vista? Ne parlavamo proprio appunto dell'antipolitica, no? Sì, e questo, il 2013 è stato, diciamo, peggiore del 2012. Insomma, mi ero convinta che il 2012 fosse stato l'annus horribilis, appunto, della politica italiana, perché c'era stata tutta quella sequenza di scandali che hanno coinvolto tutti i partiti, insomma, dal PD alla Lega, Berlusconi, tutti i partiti sostanzialmente, mentre poi abbiamo visto che nel 2013 la situazione è stata ancora peggiore, perché si è arrivati ad una situazione di stallo e di paralisi che non si era mai registrata. Quindi, come diceva Pasquino, appunto, siamo davvero al punto zero di credibilità dei partiti, ed è chiaro che da questa situazione bisognerà uscire. Io penso, in realtà, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Pasquino, che ci sia un grosso problema di cui si parla poco, cioè che questa formula politica delle intese ora ristrette in realtà non sia in grado di produrre riforme palingenetiche, quindi si continua a caricare questa formula politica di grandissime aspettative, ma se uno ha una bicicletta non può pensare di avere una Ferrari, quindi temo che anche questa formula politica non sarà moltissimo in grado di produrre grandi riforme, per cui sono sinceramente preoccupata di come si potrà da un lato partorire una legge elettorale decente, quindi in grado di assicurare la governabilità, e come poi si possa pensare di realizzare riforme che negli ultimi 20 anni nessuno è riuscito a fare. Quindi questo non giova chiaramente ai sentimenti di passione nei confronti della politica, perché per recuperare credibilità i partiti devono fare delle cose, non c'è nessun'altra ricetta, cioè fare e fare bene, portare a casa degli obiettivi, ma c'è una sorta di circolo vizioso: se il governo, anche per come congegnato, non riesce a farlo, è chiaro che le persone si rassegnano ancora di più. Proprio di persone, chiedo alle ascoltatrici e ascoltatori al numero verde 800 24 00 24 di fare un loro commento, di dare un loro giudizio sulla politica italiana di quest'anno, di come è stato un vostro bilancio del 2013. Professor Pasquino, diceva Elisabetta Gualmini, appunto, la credibilità che ancora la politica non riesce a recuperare, parlava di riforma elettorale, ma anche il finanziamento dei partiti. Alla fine, diciamo, con forse la spinta da una parte di Grillo, dall'altra di Renzi, qualcosa entro la fine di quest'anno, abbastanza di recente, insomma, a dicembre, è successa, con Letta che forse ha fatto un annuncio un po', diciamo, un po' spropositato forse rispetto a quello che effettivamente è il risultato, perché ha annunciato: basta, abbiamo deciso, stop al finanziamento dei partiti. Invece, in realtà, questa cosa inizierà progressivamente e forse sarà eliminata nel 2017. Fine dicembre 2016, sembra. Mi auguro, sì. La dichiarazione di Letta era roboante, non c'è nessun dubbio. È al di sopra di quello che sta succedendo effettivamente, però mettendo insieme alcune poche altre cose, probabilmente i soldi di cui i partiti hanno bisogno potrebbero essere ancora meno, e quindi potrebbe esserci ancora, come si dice, una sforbiciata. Però ha ragione Elisabetta Gualmini, cioè il governo difficilmente potrà cambiare passo. Quello che chiede Renzi è difficilissimo. Questo è un governo di coalizione, fra due attori e mezzo, dirò così, perché Scelta Civica è piccola e per di più erosa da alcuni conflitti, che hanno posizioni differenti su molte materie. E allora forse possono riuscire a raggiungere un qualche accordo, e sembra che l'abbiano fatto sull'abolizione delle province. Anche questo, fra l'altro, è uno dei vantaggi che i partiti perdono, perché lì il loro personale politico era anche abbastanza numeroso. Probabilmente il cambiamento del bicameralismo, cioè la seconda Camera, diventerà qualcos'altro. La mia preferenza sarebbe che non diventasse un ben niente, che venisse semplicemente abolita, e anche qui c'è un risparmio strutturale. Quindi un'unica Camera vedrebbe bene, Pasquino? Certamente, non saremmo gli unici al mondo. Cioè, capisco che molto spesso qualcuno dice che i paesi africani hanno un Parlamento monocamerale, ma la Svezia ha un Parlamento monocamerale. E se poi vogliamo guardare i paesi che davvero funzionano benissimo, la Svezia funziona benissimo, ma la Germania ha una seconda Camera fatta di 69 rappresentanti, che per di più sono nominati dai vincitori nelle varie elezioni dei Länder tedeschi. E il terzo modo per cambiare, sul quale credo che anche Alfano dovrebbe essere d'accordo, riguarda naturalmente la riduzione del numero dei parlamentari. Tutte riforme possibili, perché non sono partiticizzate, per così dire così, e che producono effetti strutturali. E sulla legge elettorale invece io non so neanche se possiamo dire le distanze sono grandi, perché io non ho ancora capito che cosa vogliono, e quindi sto aspettando che qualcuno scriva una legge elettorale sulla quale naturalmente noi politologi, Elisabetta Gomini e io, saremo in grado di esprimerci con grande conoscenza di causa. Giusto una bozza, ecco, perché non si capisce effettivamente vari il Mattarellum, poi esempi e pezzi presi dalla Francia, dalla Germania, insomma, per il momento infatti è confuso. Il mio suggerimento è che non si vada alla marmellata di sistemi elettorali esistenti. O si importa un sistema in blocco, oppure si fa un sistema che ha una sua logica e non pezzetti che vengono da altri paesi. Cominciamo a sentire le voci degli ascoltatori come commentatori sul bilancio politico di quest'anno italiano. Mario, dalla provincia di Trento, il numero verde 800 24 00 24. Buongiorno, grazie Roberto. Buongiorno, auguri anche agli ascoltatori. Ricambio, Mario, grazie. Prego. Allora, mi complimento. Allora, guarda Roberta, io penso che una delle cose che mi ha colpito molto è il Presidente della Repubblica, così che ha eletto tutti quei quattro senatori, saggi, eccetera, no? E di aver permesso di irradiare Berlusconi. Ora, per quanto riguarda il PD praticamente, non mi sono mica bene, perché mettere insieme Matteo Renzi con la Bindi, credo che Matteo Renzi abbia più cose in comune con Berlusconi che con la Bindi. Ecco, penso, non so come va a finire, perché se arrivano le elezioni, non so, io può darsi che Berlusconi... Cioè, ma Mario, il tuo è un auspicio o una critica, nel senso che Renzi possa... È una critica, nel senso, perché non aveva senso radiare Berlusconi da senatore. Ho capito, Mario, no, su questo ho capito che era una critica, dicevo l'associazione con Renzi, ma saluto Maurizio Belpietro, direttore di Libero. Ciao Maurizio. Ciao. Come adesso diceva Mario, fra i tanti accadimenti importanti, estremamente rilevanti della politica di quest'anno, appunto anche la decadenza di Berlusconi da senatore e poi la nascita anche di Forza Italia, come cambia, come è cambiato in quest'anno, quindi con questo evento, possiamo anche chiamarlo, la politica italiana, e come proseguirà secondo te, Maurizio, dal punto di vista del centrodestra? È cambiato parecchio, nel senso che effettivamente c'è stata la prima condanna definitiva per Silvio Berlusconi e poi tutta la battaglia condotta in Parlamento per la sua decadenza, cosa che poi è stata ratificata. È cambiato parecchio, ma non è cambiato sostanzialmente nulla, perché è vero che non c'è più Berlusconi in Parlamento, ma Berlusconi comunque rimane un protagonista della vita politica di questo paese, rimane protagonista fuori dal Parlamento, ma comunque rappresentante di un terzo degli elettori. E allo stesso tempo è cambiata la situazione politica, perché abbiamo visto rottamati tutti i vecchi dirigenti del Partito Democratico, i quali sono stati messi in un angolo, e abbiamo un nuovo segretario del Partito Democratico, il quale si comporta in maniera quantomeno curiosa, nel senso che essendo il maggior azionista del governo oggi, dopo che c'è stata la rottura in seguito appunto alla decadenza di Berlusconi, e Berlusconi e Forza Italia sono usciti dal governo, dopo tutto ciò lui è l'azionista di maggioranza, ma si comporta come se in realtà fosse all'opposizione. Ogni giorno basta sfogliare le prime pagine dell'Unità, che in fondo è il giornale più organico, più vicino, al PD, più vicino al Partito Democratico, per rendersi conto che i titoli sono più o meno questi. Renzi, ultimo avviso a Letta. Ma Letta era il numero due del Partito Democratico fino a pochi mesi fa, e comunque rimane uno dei protagonisti, dei principali esponenti del Partito Democratico. Quindi Letta dice a uno dei suoi ultimo avviso. Oppure l'altro giorno, appunto, il titolo era Letta in bilico, torna a ballare perché lo fa ballare il suo segretario. Cioè, capite che è una curiosa anomalia che oggi viene segnalata anche dal Corriere della Sera, oltre che da noi, da Libero, dove si dice cerca di fare il partito di lotta di governo, ma qui è abbastanza difficile fare il partito di lotta di governo. Come si diceva, infatti. Maurizio, adesso ci dobbiamo fermare, cioè questa pausa, e poi continuiamo con la nostra analisi, il nostro bilancio sui fatti italiani, in particolare della politica di quest'anno, e anche su, vedete, parlandone, poi si cominciano a fare anche delle previsioni per l'anno nuovo, le faremo anche da un punto di vista economico, ma tra poco 800 24 00 24 per i vostri commenti sui fatti italiani di quest'anno. 24 mattino. Roberta Giordano sempre con voi in questo speciale di 24 mattino dedicato a un bilancio dei fatti italiani, in particolare politici, di quest'anno, del 2013, che si sta chiudendo proprio oggi, e tiriamo un po' le fila che ci aiutano anche magari a gettare uno sguardo di previsione sull'anno che si sta aprendo, che si apre domani, sul 2014. Ci sono sempre il professor Gianfranco Pasquino, la professoressa Elisabetta Gualmini, il direttore di Libero Maurizio Belpietro, tra poco ancora gli ascoltatori all'800 24 00 24 per un vostro bilancio personale, una vostra analisi sulla politica italiana di quest'anno. Tra l'altro, professoressa Gualmini, adesso spostiamoci sul fenomeno Grillo, no? Sì. È stato Grillo davvero, con la sua incursione nella politica italiana, ha determinato quest'anno un cambiamento, o sono solo scosse di assestamento, perché poi la politica italiana alla fine, in modo gatto pardesco, si riaggiusta e riprende posizione? No, io penso che Grillo abbia avuto un ruolo, secondo me, molto consistente quest'anno, anche solo perché insomma ha ottenuto una marea di voti davvero esorbitante, significativa durante le ultime elezioni, e soprattutto nonostante quello che molti commentatori sostenevano, in realtà questi parlamentari qualcosa hanno fatto, per cui anche sulle ultime così vicende relative alle slot machine, agli affitti d'oro, ecco, i parlamentari di Grillo c'erano e così hanno svolto questo ruolo di pungolo e di correzione, diciamo, del sistema. Quindi secondo me hanno imparato a fare il loro mestiere e lo fanno insomma molto meglio di quanto si pensa. Dopodiché non penso che la politica italiana, dopo la scossa di Grillo e appunto dopo questi sentimenti di antipolitica sempre più diffusi, possa tornare ad essere sempre quella. Penso che sia assolutamente impossibile e ovviamente del tutto non auspicabile. Maurizio Belpietro, che tipo di influenza e di cambiamento di strategia può aver avuto, può avere Grillo sulla politica con cui procederà Silvio Berlusconi? Ma innanzitutto Grillo ha confermato una cosa, e cioè che l'elettorato è mobile, e l'elettorato è alla ricerca di qualche cosa. C'è una parte di elettorato che è scontenta del sistema dei partiti ed è pronta a votare qualsiasi cosa, anche senza sapere chi sia, perché la tanto celebrata democrazia della rete in realtà, come poi abbiamo visto, si è ridotta davvero a poca cosa, perché quando si è trattato di scegliere i candidati sono stati scelti in qualche caso davvero da un pugno di voti, quindi vuol dire che la maggior parte degli elettori ha votato Grillo, la sua idea di cambiamento, senza neanche conoscere chi stava andando a eleggere in Parlamento, e questo la dice lunga anche su tutto il dibattito sulla legge elettorale, la possibilità di scelta da parte degli elettori. Poi gli elettori vogliono qualche cosa che significhi cambiamento, perché sono scontenti dell'attuale situazione politica, sono scontenti dell'offerta politica. Quindi è molto probabile che da questo punto di vista, e Berlusconi ha capito perfettamente, e Renzi rappresenta lo stesso filone da questo punto di vista, perché nessuno ha capito esattamente che cosa voglia fare Renzi. Renzi dice, sia dal punto di vista della legge elettorale, ma ancor più che una cosa che ci riguarda da vicino, gli italiani, sul tema economico, dice una serie di cose, ma non entra molto nel dettaglio, non spiega mai come fare. L'altro giorno, per esempio, ha detto daremo l'indennità di disoccupazione a tutti quelli che perdono il lavoro. Ci sono stime da questo punto di vista che parlano tra i 30 e i 40 miliardi di costo complessivo. Renzi si è ben guardato a spiegare dove li trovi questi miliardi in un momento di difficoltà. Quindi che cosa voglio dire? È cambiato totalmente lo scenario, perché che cosa vogliono gli elettori? Vogliono qualcuno che cambi la situazione, e quindi qualsiasi promessa oggi riesce a tradursi, se è convincente, addirittura in un partito con il 20% dei voti, cosa che è successa con Grillo. C'era stato qualcosa del genere nel 1994, quando scese in campo Berlusconi, ma erano scomparsi dei partiti. Era scomparsa la DC, era scomparso il PSI. Qui invece non è scomparso niente, sono rimasti i partiti, ma gli elettori si sono spostati. Di questo, secondo me, tutti dovranno tenerne conto, perché prima o poi il problema si riporrà, perché la scontentezza comunque rimane, sia per quanto riguarda la destra, il centro, sia per quanto riguarda la sinistra, e anche per quanto riguarda, ho la sensazione, una parte dello stesso elettorato che ha scelto Grillo. Sentiamo che elettore è Massimo da Firenze all'800240024. Massimo. Buongiorno. Auguri di fine anno a voi, alla redazione e agli ascoltatori. Grazie a te. Senti, io volevo intervenire perché noi in famiglia siamo per Renzi, questo è palese già dall'altra volta, però per quanto mi riguarda sono anche un attento così osservatore, non voglio dire simpatizzante del Movimento 5 Stelle. Secondo me molte delle cose che dice, riguardo a Baia, Grillo, però le altre cose che dice sono giuste e non sempre vengono prese, specialmente da voi giornalisti, in seria considerazione. Ad esempio, noi si vota Renzi perché si aspetta veramente, anche se io so 57 anni, da un giovane il vero cambiamento, ma non a parole, lo aspettiamo i fatti. E per esempio da voi giornalisti, specialmente Radio 24, che vi devo dire, vi devo fare i complimenti, siete dei veri professionisti, se si aspetterebbe per esempio un chiarimento, per esempio si sta parlando dei 22 milioni di Fiorito, no? Della Corte dei Conti che è stato condannato. Beh, ci risulta che anche Renzi è stato condannato a 5-6 milioni dalla Corte dei Conti, però sia voi giornalisti, che non ne parlate, per cui noi gli fa delle domande, sia Renzi non risponde, non dà delle giustificazioni. Vorremmo sentire delle parole da Renzi per giustificare questo fatto. Massimo, vediamo se riusciamo a avere una risposta in diretta dalla professoressa Gualmini, anche rispetto a quello che diceva prima Maurizio Belpietro, che di Renzi fa varie promesse, annunci eccetera, dice Maurizio Belpietro, però non si capisce bene in che modo, per esempio, anche nella politica economica intende agire. Ma sì, devo dire che Renzi è in una posizione delicata, quindi condivido alcune cose che ha detto il direttore. Sicuramente lui da fuori deve appunto sollecitare l'esecutivo, perché non può rischiare così di far appannare la sua figura dopo il successo che ha avuto, e non può rischiare di bruciarsi. Nello stesso tempo, stare un anno e mezzo così bacchettando da fuori un esecutivo, peraltro guidato da un esponente del suo partito, evidentemente insomma può creare qualche problema, quindi devo dire che questa ambiguità appunto di questo ruolo di lotta e di governo alla lunga potrebbe creare qualche problema a Renzi. In tutto questo c'è la partita delle europee, cioè è chiaro che Renzi ha ben presente che a maggio si vota per le europee e quindi non può rischiare di fare una brutta figura come segretario del PD, per cui cerca da un lato di farsi sentire, far sentire la sua voce, una voce di cambiamento, anche cercando di togliere terreno per esempio a Beppe Grillo, insomma, quindi di rincorrerlo su suoi temi. Dall'altro lato probabilmente non si sente di buttare all'aria completamente l'esecutivo, di far rotolare il governo, anche perché in questa situazione senza legge elettorale è davvero difficile pensare di tornare alle urne, e quindi gioca su questo ruolo di ambiguità. Ecco, nel medio termine vedo anch'io qualche problema. Allora, intanto soffermiamoci su questi problemi e sentiamo se ci sono anche dei problemi per il traffico. Io intanto saluto e ringrazio allora Maurizio Belpietro. Buon anno, buon anno Maurizio, buon anche anno, per il tuo giornale. Ciao, ti ringrazio. E poi sentiremo anche, ci sposteremo sulle questioni economiche e anche sulla figura, a proposito di bilancio di quest'anno, naturalmente centrale, di Napolitano. A tra poco. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. 24 mattino. Insomma, nell'anno della rinascita anche di Forza Italia non si poteva non risentire a distanza di 20 anni dalla sua nascita l'inno di questo partito rifondato da Silvio Berlusconi. Però c'è stata anche un'altra, come potremmo dire, rinascita, rifondazione, riconferma, quella di Napolitano. Stasera tiene il discorso di fine anno già con annunci di boicottaggio da parte appunto di Forza Italia, da parte Grillo che dice no, invece seguite il mio discorso sul blog, la Lega che segue in questo disincentivare insomma le persone, il pubblico all'ascolto di Napolitano che si allea con Forza Italia. Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, ciao Marzio. Ciao, buona giornata. Marzio, se tu dovessi fare un'analisi di quella che è stata la storia dell'ultimo anno di Napolitano, con tutta quella specie di psicodramma dell'elezione del presidente che sappiamo, no, con il PD, che insomma anche in questo ha fatto proprio una figura edificante, con la richiesta più o meno a metà anno, insomma, da parte di un'ampia parte del Parlamento di ricandidarsi, di ritornare insomma a guidare il paese dall'alto della sua saggezza, e dall'altro arrivando verso fine anno una massa di critiche nei suoi confronti, anche durissime, che insomma fanno di Napolitano, non so se è possibile dirlo, uno dei presidenti più richiesti, più amati da una parte e dall'altra più criticati? Beh sì, è un po' la situazione schizofrenica che sta vivendo il presidente. Dal dicembre 2011, quando Napolitano si inventò, congedò diciamo Berlusconi anzitempo e si inventò il governo Monti, ebbe l'acme, lo zenith dei successi, arrivando quasi al 90% dei consensi. Diciamo il consenso è calato via via che il governo Monti diciamo combinava poco e facendo anche parecchi errori. Poi c'è stata insomma quella che doveva essere una chiusura del settennato, con la dichiarazione di impotenza dei partiti che salivano in processione. Ancora lì era un momento molto alto di consenso di Napolitano. Ricorderemo che quanto fu applaudito il discorso nel quale si insediò per il secondo mandato, criticando moltissimo le inconcludenze della politica. Adesso diciamo che non ci sono più freni inibitori, Napolitano è molto attaccato, quindi questo è legato alle difficoltà del paese. Siccome lui è stato Lord Protettore di questi due governi, sia Monti che Letta, e questi due governi stanno facendo il minimo sindacale, se non qualche danno, penso a Monti, alla Fornero, è chiaro che viene imputato anche a lui di riflesso la responsabilità di questo traccheggiamento del paese. Napolitano peraltro è uno che ne ha viste tante, non è che ha un temperamento certamente anche fumantino e ha le sue permalosità anche comprensibili, ma soprattutto insomma fa fatica a capire gente che 8 mesi fa è salita appunto al Quirinale col cappello in mano a chiedergli di restare, che adesso lo martella. Ecco, questo è il punto. Allora chiedo, prima di salutarli, Elisabetta Gualmini e Gianfranco Pasquino, proprio un oroscopo politico dell'anno prossimo, proprio lo so che è difficile, in una frase, in due frasi, professoressa Gualmini. Ma io penso in una frase che sarà l'anno di Matteo Renzi, di una persona che nel giro di un anno ha comunque ribaltato il tavolo e soprattutto la dirigenza all'interno del suo partito, quindi nel bene e nel male, perché vedremo come si comporterà, ma insomma sarà l'anno del sindaco di Firenze. Grazie professoressa Gualmini. E Gianfranco Pasquino? Io spero che non sia l'anno di nessuno, ma che sia l'anno semmai dei cittadini europei, quelli che pensano che il nostro futuro, forse anche il nostro destino, sta in Unione Europea, che sia capace di funzionare efficacemente, che riduca le eguaglianze, che produca sviluppo. Forse l'ordine dovrebbe essere prima che produca sviluppo e poi riduca le diseguaglianze, e che sia in grado di rappresentare un sistema politico nel quale tutti si sentono a loro agio e anzi sono anche in grado di accogliere coloro che scappano da situazioni tremende nei loro rispettivi paesi e che hanno bisogno non solo di asilo politico ma anche di un lavoro. Questo è il mio augurio. Quindi una previsione, un auspicio, un augurio, e auguri a voi e di buon anno Elisabetta Gualmini e professor Pasquino. Grazie, grazie. Ci ritroviamo nel nuovo anno. E c'è invece qui con me il collega, cioè le 24 ore, Mauro Meazza, al quale invece vorrei chiedere un bilancio della politica economica di questo governo di quest'anno, a cominciare magari, a parte la crisi, ma naturalmente anche quella della telenovela infinita dell'IMU, di cui abbiamo parlato diverse volte, no Mauro? Sì. Diciamo, contorcendoci per cercare di capire quali... Una fatica diciamo che però sarà superata dalla fatica che faremo da domani per capire IUC, quindi, perché quindi sei come ottimista. Sai, gli acronimi si sono sprecati. Ma buongiorno innanzitutto Roberta, buongiorno agli ascoltatori. Grazie. E auguri prima che dico auguri adesso, perché poi quello che vorrei dirti invece non è molto gradevole. È stato un anno, oggi lo ricordiamo su Sole 24 Ore, buono per i mercati finanziari, abbastanza buono per la borsa italiana. Ci sono state delle crescite importanti dal punto di vista finanziario anche per piccole e medie imprese che si sono presentate in borsa. Bene, quindi la finanza, dicono che la finanza anticipa l'andamento dell'economia reale, noi tutti lo speriamo perché l'economia reale versa in condizioni molto critiche. Soprattutto una cosa, io ho ascoltato colleghi, i professori discutere appunto delle capacità di rappresentanza della politica. Io credo che il tema del lavoro che non si trova per le generazioni più giovani, perché quest'anno abbiamo ormai sfondato il numero del 40%, no? Nella prima fascia di possibile occupazione, quindi abbiamo questo fenomeno in piena estensione dei NEET, cioè dei giovani che non studiano e non lavorano, ed è un altro fenomeno molto preoccupante. Oggi Cristina Casadei su Sole 24 Ore ci ricorda: contratto scaduto per un addetto su due, cioè i contratti scadono e non vengono rinnovati per mancanza di prospettive. Ma perché non ci sono le prospettive? Perché c'è il credit crunch, perché c'è questa stretta del credito che impedisce, che rende difficile alle imprese finanziarsi e quindi anche consentire una possibilità di sviluppo di investimento. Che cosa è andato bene quest'anno? L'export, la meccanica diciamo di altissima qualità, tutte le aziende che in qualche modo si sono mosse in aree ad alto valore aggiunto e quindi il lusso, e poi si è visto anche appunto negli andamenti di borsa, negli andamenti di finanza. Questo lato è andato bene, ma l'economia reale segna dei punti delicatissimi. Ti dico solo questo: quest'anno abbiamo visto calare i consumi di nuovo. Ieri pubblicavamo sul Sole 24 Ore una ricerca: gli italiani ormai hanno rinunciato a un mese di consumi, cioè se prima si spendeva in consumi per 10 mesi, adesso non ricordo esattamente il giorno, adesso sono diventati 9. Che significa? Significa che spendiamo meno perché ne abbiamo meno, perché molti di noi sono rimasti anche senza il lavoro o senza un introito, e significa che abbiamo appunto anche meno fiducia nel futuro, quindi tendiamo ad accumulare un po' di più. Questo spiega parzialmente perché la finanza invece in questo momento tutto sommato non stia soffrendo. Mauro, prima di continuare e magari anche di fare l'oroscopo anche economico e fiscale per l'anno prossimo, prima di salutare Marzio Breda, Marzio, ti volevo chiedere, queste annunciate o non so, minacciate, insomma, dimissioni di Napolitano, se non ci dovessero essere le riforme che lui auspica, tu le vedi possibili, fondate? Diciamo, è un sottofondo di umori suoi anche in queste ore. Dopodiché è chiaro che, siccome è un discorso, il messaggio di fine anno ai cittadini, alle famiglie, non è che entrerà, però insomma dovrebbe, almeno a quello che so io, far capire abbastanza chiaramente, uno, che il suo mandato è a termine, e un po' difendersi da queste accuse, no? Per cui adesso sembra che sia nata la monarchia di Napolitano, e spiegare, credo lo farà, proprio a uso dei cittadini, come sono andate le cose e quindi anche le condizioni di quel patto in base al quale lui ha accettato la rielezione, e però i partiti si sono impegnati a fare le riforme, in primis quella elettorale. Marcio Brera, ti ringrazio, speriamo che sia un buon anno in generale per la politica e soprattutto per te, ma volevo sentire molto sinteticamente al numero verde 800 24 00 24, Vittorio da Catania. Vittorio, ti ringrazio, ma sintetico. Pronto? Sì, Vittorio. Io essendo un 75enne avanzato, sì, ho attraversato quasi tutta la storia del Novecento. Adesso non ce la racconti tutta, Vittorio, perché siamo sintetici. No, io non racconto niente, ecco. Vado molto per per quanto interessante. Intanto sì, devo fare una piccola riflessione sulla questione dell'IMU. Io essendo un vecchio professore di scienze delle finanze, non capisco il pasticcio che hanno combinato i tecnici di Viale 20 Settembre, perché è una cosa al di là del bene e del male, la questione dell'IMU. Secondo, a proposito del Matteo. Del Matteo, il modo ancora m'offende, il modo con cui agisce lui dando spallate a questo governo, di cui è il massimo esponente, una la mattina e una la sera. C'è modo e modo di dire le cose e di fare le cose. Sei stato chiarissimo, Vittorio. Io mi fermerei qui e ti ringrazio e ti faccio i migliori auguri. E visto che Mauro Meazza, insomma, facciamo un sorriso sornione a proposito dell'IMU, perché pensavo che se non è riuscito a capirlo questo ascoltatore da professore di scienza delle finanze, figurati noi poveri cronisti che abbiamo dovuto raccontarlo. L'IMU è stato un grosso pasticcio, effettivamente, perché anche questo meccanismo di abolizione è stato adesso più grosso. Gli esodati o l'IMU, anche se gli esodati risale all'anno scorso, anche se si tratta. Diciamo che gli esodati, pur avendo un trascinamento, un'inerzia importante, perché lì c'è stato uno strappo brusco, e come tutte le volte in cui si fa uno strappo brusco poi si genera una platea di persone che e va di ripercussioni che insomma ma l'IMU è stato un pasticcio peggiore, secondo me, e non è stato neanche l'unico pasticcio dal punto di vista fiscale, che probabilmente è figlio di questo governo di coalizione, che, per carità, io non mi addentro in analisi politiche, ci siamo trovati con questo governo fatalmente deve tenere un po' presenti tutte le sue anime. Allora c'era una promessa elettorale molto forte di togliere l'imposizione alla prima casa, però d'altra parte ci sono i conti dei comuni da salvaguardare. Il risultato di questo impossibile equilibrio, questa quadratura non trovabile del cerchio, è stato appunto questo lento addio all'IMU con due decreti legge. Adesso ne arriverà probabilmente un terzo per rimediare alla mini IMU che in buona parte dei comuni si dovrà pagare. Scusa Mauro, siccome abbiamo 30 secondi, penso 32, è vero che ci sarà ripresa 2014 o è parente dell'IMU questo annuncio? Gli imprenditori dicono di no, non ancora. Il ministro Giovannini oggi dice di sì. Sul Sole 24 Ore alcuni analisti dicono di sì. Probabilmente cominceremo a vedere un po' dei settori trainanti, dei settori che vanno bene, però il mio dubbio è che l'Italia non sia in prima fila, così come non è stata in prima fila nell'andamento borsistico, non sia in prima fila anche nell'accogliere la ripresa. Forse ci sono paesi meglio posizionati di noi, sto pensando magari alla Spagna, al Portogallo, che pure hanno avuto bisogno di chiedere gli aiuti per i salvataggi, ma che in questo momento sembrano avere dei fondamentali migliori. Speriamo poi di sbagliarci, perché queste, devo dire, in questi anni di crisi abbiamo imparato che le previsioni degli economisti sono una delle cose più fallaci. Forse è meglio tornare agli astrologi tout court. Quindi vuoi rischiare tu una previsione? Così ti prendi tutta la responsabilità, Mauro Meazza. No, io voglio solo fare un auspicio. Vorrei che quest'anno vedessimo davvero l'inversione di tendenza sull'occupazione. Secondo me il problema del lavoro, il problema di ridare lavoro, di ridare lavoro vero, opportunità di lavoro. E non tornate più, mai più, mai più. Ve ne andate o no? E non tornate più, mai più. Ve ne andate e non tornate più. Un inno, si potrebbe dire, dell'antipolitica questa, anche se abbiamo detto poi con i vari ospiti finora, Roberta Giordano sempre con voi in questa puntata speciale di 24 Mattino, dicevamo insomma che più che antipolitica c'è veramente un bisogno disperato di una politica più onesta, più fattiva, più concreta, più indirizzata al bene collettivo. Abbiamo fatto finora un bilancio della politica italiana di quest'anno, dal punto di vista proprio strettamente di partiti, ma anche della politica economica. Abbiamo parlato prima di questo infinito psicodramma dell'IMU che si trasformerà poi nel 2014 in un'altra cosa. Abbiamo parlato della rielezione di Napolitano, della decadenza di Berlusconi, delle elezioni di Renzi, dell'irruzione di Grillo sulla scena politica italiana, e poi tutto questo sempre sullo sfondo della crisi, del disagio sociale, della disoccupazione giovanile da record che dicevamo. Quindi in tutto questo quadro, mentre vi ricordo che il numero verde è 800 24 00 24, vorrei chiedere tra pochissimo al direttore generale del Censis, Giuseppe Roma, che tipo di profilo ha la società italiana in questo momento. Però prima c'è Donato dalla provincia di Monza Brianza, che da diverso tempo, e lo ringrazio per l'infinita pazienza. Donato, buongiorno. Buongiorno. Senta, io intanto voglio fare gli auguri di buon anno a tutti, perché grazie, siete una radio che seguo, e vorrei esporre, visto che si parla molto della politica di Renzi, proprio un giudizio da cittadino normale. Cioè, normalmente si interrogano politici, esperti, giornalisti, tutti i giorni sentiamo le stesse cose. Io vorrei fare una considerazione semplice. Cioè, io faccio parte, ho un'età in cui ho dei figli sui 40 anni, cioè i quarantenni. Allora, io cosa ho visto da cittadino normale nell'elezione di Renzi? Ho visto un cambiamento in questo paese, cioè un cambiamento nel senso che abbiamo sempre avuto dei politici anziani, dei politici che hanno sempre fatto la stessa politica, sia di destra che di sinistra. E quindi ho visto in questa figura di giovane, una figura di giovane che si è presentato, e tutti lo considerano come un incompetente. Io voglio dire, se uno ha seguito la sua vita, cioè questo ragazzo è stato presidente di una provincia, è stato sindaco di una grande città, ha fatto, ha innovato, e quindi come persona anziana, e quindi come padre di questa generazione, ho visto in lui un cambiamento in questa nazione, anche in senso europeo, perché se noi guardiamo in Europa, in Inghilterra abbiamo Cameron, che è giovane, abbiamo la Merkel, che non è anziana, cioè quando è andata in politica era una giovane, poco più di Renzi. Quindi voglio che la politica di questo paese venga presa in mano dai giovani, che sono, devono essere il nostro futuro. Certamente non avranno l'esperienza, e per esperienza non intendo la capacità di fare tutto quello che hanno fatto quelli che ci sono stati fino adesso, ma hanno una visione nuova di questo mondo. Guardiamo anche nel modo di gestire. È chiaro, Donato, il tuo attestato di fiducia l'hai espresso benissimo, in modo molto chiaro. Questa cosa, però dall'altra parte vediamo che esiste ancora un personaggio che, oltre ad essere anziano, ha fatto il suo tempo, Berlusconi. In queste trasmissioni si fa parlare poco la gente comune, ma nella gente comune, oppure se leva anche all'estero. No, Donato, ma la faccio parlare moltissimo, però adesso siamo in tempi stretti e mi pare che tu abbia espresso in modo completo il tuo pensiero. Adesso vorrei chiedere a Giuseppe Roma che Italia è stata questa del 2013, sinteticamente, Giuseppe. Quindi le foto che ogni tanto scattate col Censis, come bilancio di fine anno, quale sarebbe quest'ultima? In due parole, questa del 2013 è l'Italia che è riuscita a frenare quella discesa, quella frana che in questi anni ha portato molto indietro il nostro paese, sia in termini di produzione, quindi di PIL, sia in termini di occupazione. Che alla fine di quest'anno un po' questa discesa verso il basso si è fermata, quindi è un anno molto importante, un anno direi di cerniera, un anno in cui una serie di virtù italiane, che molto spesso non vengono sufficientemente evidenziate, hanno avuto ragione. Nei consumi, si è detto, i consumi certo sono diminuiti, però è anche vero che le famiglie italiane in qualche modo hanno compensato a minor reddito, a una maggiore pressione fiscale, con una strategia che in qualche modo, naturalmente, chi perde il lavoro, chi non ha reddito, quelli stanno sicuramente male, ma per quel ceto medio in crisi è riuscito un po' a compensare il livello di vita stabilità attraverso delle strategie di sopravvivenza, di capacità di spendere meglio, di spendere in maniera più razionale. E direi anche il mondo dell'impresa, se vogliamo, quella più tradizionale, perché per fortuna sappiamo, ve lo dite sempre, l'impresa industriale italiana oggi in buona salute, esporta, è l'unica cosa che regge bene nel nostro paese, ma anche quella piccola impresa commerciale, artigianale, di cui ogni giorno sentiamo quante unità produttive vengono chiuse, però è anche vero che c'è una trasformazione abbastanza rilevante anche in quel mondo. Lo cito sempre perché è importante, di come gli artigiani ormai si stiano impadronendo delle tecniche digitali, l'artigianato digitale è qualcosa che sta rimettendo completamente in gioco quelle piccole unità che sembravano completamente scomparse nella competizione della globalità. E poi ci sono anche dei segnali, abbiamo visto proprio nel 2013 e ci fanno ben sperare nel 2014, di alcuni gruppi sociali, di alcune figure che abbiamo chiamato energie affioranti, che non è che siano prorompentemente sulla scena dell'economia, infatti se ne parla poco, però pensiamo a come le donne oggi siano capaci di creare imprese e di mantenerle in vita in maniera più efficiente, direi anche degli uomini, perché lo dicono i numeri, le imprese femminili crescono mentre quelle maschili diminuiscono. O il mondo degli immigrati, sono 5 milioni, ma anche qui non sono più soltanto lavoratori dipendenti o problema di tipo sociale che emerge sempre nei giornali, ma anche in questo mondo abbiamo 80.000 imprese che cominciano ad assumere persino italiani, e anche questi giovani, il mondo giovanile, avete tanto parlato oggi dei giovani politici, però teniamo conto che c'è una nuova generazione che in Italia o all'estero sta affermando la propria volontà di avere un progetto di vita, un progetto di lavoro, di avere delle competenze. Certo, purtroppo in questo momento lo realizzano più all'estero che in Italia, ma anche questo va tenuto conto come un segnale di vitalità del paese. Quindi il 2014 o c'è il cambiamento o davvero saremo un paese che ha sprecato ancora di più questa capacità sociale poi di far fronte alle difficoltà, e questa anche distanza che continua a esserci fra i pasticci, diciamo così, delle istituzioni, per cui i cittadini stessi non riescono più a capire di che provvedimenti si sta trattando, è un mondo concreto dell'artigiano, dell'imprenditore, del giovane che vuol fare il professionista, delle donne che mettono in piedi un'impresa, che avrebbero bisogno nel 2014 di più semplicità, di minore burocrazia, una burocrazia che è diventata sinceramente una burocrazia assurda oltre che eccessiva. Giuseppe Roma, ti faccio solo questa domanda e poi ti lascio libero. Volevo, il tuo quadro è stato chiaro, anche se ho l'impressione, non per fare la pessimista, che sia stato, non dico roseo, ma un rosa pallido rispetto a le analisi nere e pessimistiche che sono state fatte da più parti per quest'anno, no? Con l'aumento della povertà, con la disoccupazione giovanile record, con tantissime persone, centinaia, migliaia di persone che hanno perso il lavoro. Però tutto sommato mi è sembrato ottimistico, proprio in un minuto, Giuseppe. No, ma non è una questione né di ottimismo né di pessimismo, ma come dire, dobbiamo guardare le risorse, tu dici, le risorse che abbiamo è un paese che ha tenuto, tutto sommato. Come poter fare a farcela, perché noi ce la faremo, il problema è in quanti anni. Prima ce la facciamo, prima diminuiremo la povertà, diminuiremo la disoccupazione giovanile, ma noi non possiamo mettere, come dire, noi ci angosciamo giustamente e naturalmente denunciamo moltissimo tutti i fenomeni negativi, ma non riusciamo ad avere una soluzione. Da quanto tempo parliamo di disoccupazione giovanile? Cosa abbiamo fatto? Nessun provvedimento ha avuto un effetto. Allora rovesciamo il discorso, nessuno nega il disagio, la disoccupazione, le imprese che chiudono, ma figuriamoci. Però noi dobbiamo vedere se questo paese ha le risorse per farcela e puntare su questo. E secondo te, perché è inutile dire dobbiamo far assumere i giovani, ma chi li può assumere se per aprire un'impresa è veramente un'impresa impossibile? Hai ragione, quindi semplificare anche per quanto riguarda la burocrazia e poi la stessa corruzione per l'anno prossimo. In questo modo, se vogliamo, e anche la spending review, la riduzione della spesa pubblica, ma è un'operazione impossibile così come la si propone, perché non è che si può tagliare la spesa pubblica senza tagliare le regole che stanno dietro quella spesa, e quindi bisogna partire dalla semplificazione. Chiaro. della burocrazia, da lì ne deriverà una riduzione della spesa, una riduzione delle tasse, e il paese forse può rimettersi in moto. Grazie Giuseppe Roma, alle prossime istantanee per il 2014 vedremo a che punto siamo. Buon anno anche a te intanto. Ciao. Tanti Giuseppe auguri, ciao. Grazie. Toni da Roma, l'800 24 00 24, sintetico Toni, mi raccomando. Pronto? Sì. Buongiorno, innanzitutto volevo augurarvi buon anno. Grazie. A voi e a tutti gli ascoltatori. Sì. Se mi date del tempo, ho due sole domande volevo fare. Molto brevi. Volevo chiedere, in base alla giustizia, un condannato per peggior reato, quello dell'evasione fiscale, come mai non sta o ai servizi sociali oppure sta a casa chiuso senza dover poter comunicare con nessuno, addirittura si parla di doverlo fare il senatore? Ma la giustizia c'è o non c'è in Italia? La prima cosa. Sì, Toni, non sei stato chiarissimo con questa domanda. Qual è la domanda? Non ho capito. Io parlo di facciamone Berlusconi. Sì. Io parlo di Berlusconi, che è stato condannato per il reato peggiore che ci sia in Italia, l'evasione fiscale. Sì. Cioè rubare dalla tasca degli altri cittadini. Sì. Che pagano. Quindi la domanda qual è? Le tasche. Quindi? Ecco, dico che è stato condannato, ma chi sta sempre in giro? E sembra che sia una stella del cinema. Ho capito. In televisione. Toni, è chiarissimo. E visto che parliamo di giustizia, allora passo subito a Bruno Tinti. Buongiorno Bruno. Buongiorno. Ex magistrato, giornalista, scrittore, tra i suoi libri più noti c'è Toghe Rotte, per vedere la giustizia dal di dentro, di chi l'ha vissuta. Bruno, vuoi rispondere tu e poi diamo proprio un quadro di quelli che sono stati i provvedimenti relativi alla giustizia quest'anno in Italia? La risposta è semplice, perché la legge è fatta per permettere a persone come queste di infischiarsene della legalità, evadere e fare una vita tranquilla. Berlusconi è stato condannato a una pena rilevante, 4 anni, per carità, per evasione fiscale dovevano essere 3 anni. Molti di più, però la pena in sé non era male, però gliene hanno regalati 3 con l'indulto. Poi c'è questa cosa demenziale dell'affidamento in prova ai servizi sociali, e i giudici più che applicare la legge non possono, quindi la risposta è molto semplice, perché i pari di Berlusconi, la gente come Berlusconi, si è cauteata con leggi che, qualora mai dovessero trovarsi nei guai, comunque gli consentano di cavarsela nella maniera migliore possibile. Bruno, invece sugli altri, si è tornato a parlare in vari appelli di Napolitano, poi ultimamente anche la ministra Cancellieri, di indulto, di amnistia, i vari provvedimenti svuota carceri, no, un bilancio di quest'anno quindi. Guardi, è la vergogna delle vergogne, io non so, questa gente o parla sapendo che dice delle cose assurde, quindi parla in malafede per farsi una verginità, per darsi un'immagine davanti più che agli italiani e all'Europa, no? Che ci chiede svuotate le carceri e cose del genere, oppure veramente non sa quello che dice. Allora, noi abbiamo posti in carcere mal contati per 44.000 persone, ce ne stanno 64.000, questa è la popolazione standard italiana. Chiunque capirebbe che di fronte a un fenomeno standard, non so, un fiume che tutti i mesi di dicembre straripa all'altezza di 2 metri, cosa fa? Costruisce un muretto di 2 metri e 10 centimetri. Noi da anni avremmo dovuto costruire un certo numero di carceri per ospitare 20.000 detenuti, perché questa è la popolazione standard di carcerati in Italia, fra l'altro in linea con quella degli altri paesi europei. Invece noi che cosa abbiamo fatto? Carceri non le abbiamo costruite e periodicamente abbiamo regalato anni di galera che dovevano fare ai peggiori delinquenti, uno fra questi Berlusconi. Adesso che cosa ha fatto Cancellieri? Si è dovuta fermare di fronte a un paese che, quando ha sentito parlare di amnistia e indulto, gli sono venuti i capelli dritti, e si è inventata una sorta di svuota carceri molto tecnico, diciamo così, così la gente non capisce che cosa succede. Voi tutti pensate che quando una persona è condannata a 6 anni di prigione, deve fare 6 anni di prigione. Non è vero. Con la legge attuale ogni anno vale solamente 9 mesi, perché ogni anno gliene vengono abbonati 3. Attenzione, non è che gliene vengono abbonati 3 perché è bravo, perché si sacrifica, perché lavora, perché presta servizio sociale. No, gliene vengono abbonati se non fa casino, se non disturba, se non picchia, se non violenta. Se se ne sta tranquillo e non dà disturbo, ogni anno vale 7 mesi. Cancellieri l'ha aumentato, gli ha regalato un altro mese e mezzo, quindi ogni anno di galera reale vale 5 mesi e mezzo. Si può ragionare in questo modo? Io condanno un rapinatore a 10 anni, ma la verità è che i suoi anni reali sono poco più di 5? Ovviamente no. A questo si deve aggiungere che, vi ricordate Galdiano, il serial killer che è uscito? Sì, ne abbiamo parlato poco tempo fa, diciamo, perché? Che l'anno si è concluso con questi casi paradossali anche della giustizia. Ma perché è uscito di galera? Tutti a dire quel giudice non capisce niente. È uscito di galera perché la legge prevede questo. Prevede permessi premio per un altro mese e mezzo, da aggiungere agli sconti di cui ho parlato prima. Di nuovo, non per quelli che hanno fatto cose straordinarie, atti di bontà, per quelli che non fanno casino. E attenzione, non si può valutare la condotta del detenuto che ha tenuto 2 anni fa, 3 anni fa, 5 anni fa, 6 mesi fa. La valutazione deve essere circoscritta agli ultimi 6 mesi. Quindi se per esempio uno fa una rivolta carceraria, fa un casino d'inferno, finisce naturalmente in infermeria. Per i 6 mesi in cui c'è stata la rivolta carceraria non avrà il permesso, ma i 6 mesi dopo, quando stava in ospedale a curarsi e quindi casino non poteva fare, allora il permesso gli tocca. Galdiano era stato bravo negli ultimi 6 mesi e ha avuto il permesso. Ora questa è una legislazione demenziale e però noi abbiamo queste persone che tranquillamente, come se scoprissero l'acqua calda, la vengono a raccontare. Mi viene in mente che nell'antica Sparta, sotto Licurgo, quando qualcuno si alzava per proporre una legge, gli mettevano un cappio al collo e se la legge veniva respinta lo tiravano. Sarebbe mica male, eh? Bruno, diciamo, questi sono i paradossi, abbiamo parlato di paradossi anche fiscali, economici e della politica di quest'anno, questa benedetta riforma della giustizia, quindi, di cui si parla da tempo, quali dovrebbe avere secondo te di elementi base per essere una riforma di giustizia giusta? Guardi, in realtà la giustizia così com'è è giustissima. Questa storia della giustizia giusta, del processo ingiusto, è stata messa in giro da Berlusconi e compagni. L'ingiustizia della nostra amministrazione giudiziaria è una sola, la lunghezza dei processi. È assolutamente ingiusto che un processo penale duri 8 anni e così anche un processo civile. Lei pensi se va a un credito nei confronti di qualcuno di 1 milione, perché questo dovrebbe pagarglielo? Tanto ci vorranno come 8 anni perché forse glielo debba dare, quindi non lo pagherà, ed è un fattore di disgregazione sociale ed economica questa. Allora, l'unico problema del processo italiano, della giustizia italiana, è la lunghezza. A che cosa è dovuta questa lunghezza? Alla legge. La legge processuale italiana, sia quella civile sia quella penale, è costruita per far durare il processo molto a lungo. E non c'è un'altra ragione, soprattutto non c'è se si tiene conto di una peculiarità italiana a cui io dico subito non vorrei rinunciare. In Gran Bretagna ci sono più o meno lo stesso numero di giudici, lo stesso numero di cittadini e lo stesso numero di delitti, però ogni anno ci sono 300.000 processi nuovi. Perché? Perché i processi da 4 soldi, le liti da 4 soldi, in tribunale non ci arrivano proprio, vengono fermate prima. Da noi sa quanti processi nuovi ci sono ogni anno? 3 milioni. Come si fa a fare giustizia con un ingresso annuo di 3 milioni di processi nuovi, ognuno dei quali deve essere fatto con un processo, una procedura penale che è la stessa, cioè una guida senza patente ha lo stesso tipo di processo che ha un omicidio premeditato? Primo grado, secondo grado, Cassazione, ricorso al Tribunale della Libertà, eccetera, eccetera. È tutto privo di senso. Sto cercando di... La vedo sconvolta. Abbastanza, perché così, la vedo complicata. Parlavamo prima di previsioni politiche, delle riforme, di come si possa cambiare anche lo scenario politico, di come si possa arrivare davvero a una politica più concreta, più fattiva e anche dal punto di vista della giustizia. Vedo insomma che ci sono parecchie cose da fare, troppo lavoro, e a questo punto io direi, Bruno Tinti, rimaniamo, che ci sentiamo naturalmente nel nuovo anno. Vediamo, quindi a questo punto non facciamo previsioni anche dal punto di vista della giustizia, perché mi sembra che ci sia già tantissima carne al fuoco. No, adesso ce n'è ultima, sa? Abbiamo proprio 20 secondi. Quando si arresta una persona, sì, 20 secondi. Non la si può arrestare. Prima bisogna telefonarle e dirle: guarda che io voglio arrestarti, quindi fatti trovare domani o dopodomani, ne parliamo un po' insieme. Ma a lei può sembrare un'idea partorita da una persona normale? No, non mi sembra, Bruno Tinti, quindi su questo ci fermiamo, perché adesso abbiamo bisogno un po', insomma questo bilancio è stato abbastanza pesante, quindi adesso grazie Bruno Tinti, le auguro un ottimo anno e saluto ascoltatrici e ascoltatori, ringrazio Alessandro Marcutulli, alla parte tecnica c'è Carmelo Lauricella, ci risentiamo, ve lo ricordo, il 7 gennaio, dal 7 gennaio effetto notte tutte le sere alle 21. E da Roberta Giordano a questo punto l'augurio, al di là di auspici ambiziosi, insomma, che l'anno prossimo sia almeno un pochino meglio di quello passato. Già sarebbe un successo.